chissà, stelle chissà, che di mie vene l'umor non fastidio ad ammorzar quel lir, che minacciano il traccio l'alma mia. Felice me, se tanto tien da voi la mia pietà del pianto,